Piazza 24, i gialli della storia. Io dovevo dire delle cose sgradevoli nell'uno e nell'altro caso, cioè dovevo parlare di riorganizzazione, di ridimensionamento, di spostamento di occasioni di lavoro, di opportunità di lavoro. Eravamo in attesa di notizie, di vita o di morte per noi, almeno questa era la nostra considerazione del momento. In pratica noi proponemmo di chiudere e fermare l'alto forno. Chiudere l'alto forno? Che ci mettevamo noi, una discoteca? E una volta chiuso l'alto forno proponevamo di cambiare il treno di laminazione installandone uno molto più moderno, molto più efficace. Quando De Michelis fece questa proposta ci fu un boato all'interno del capannone. Tutti gli operai si alzarono e incominciarono ad urlare e a fischiare. Un delegato che era sul palco accanto a De Michelis disse: compagni, il ministro De Michelis è un nostro compagno. E allora partì una raffica di fischi ancora più forte. L'obiettivo nostro era di salvare Bagnoli, nel senso di rendere possibile la continuazione di un'attività produttiva siderurgica in quella località. Per uscire dalla crisi, alla fine passa l'idea della ristrutturazione. Il nuovo, modernissimo treno di laminazione costa 800 miliardi della vecchia lire. Rimarrà in funzione solo 5 anni. Svenduto per soli 20 miliardi, segnerà in Italia l'inizio di una mala stagione. La grande dismissione. E quel 3 novembre del 1981 sarà un giorno fatale per l'industria italiana. L'impianto siderurgico di Bagnoli, uno dei più grandi del mondo, presto sarà costretto a chiudere. Il sogno di un futuro garantito per migliaia di lavoratori si infrange e quello stabilimento, creato agli inizi del secolo, sotto la collina di Posillipo, un gigante che avvelena l'aria, inquina le acque del Golfo di Napoli, è anche una speranza per molti. Oggi su Mix 24 raccontiamo la sua storia, la storia degli operai, dei tecnici, dei politici e degli imprenditori, con le testimonianze di Antonio Bassolino, l'ex presidente della Regione Campania, e del sociologo Domenico De Masi. E questo racconto inizia proprio dalla nascita dello stabilimento. 'Ghisa, ferro e acciaio sono il motore dell'economia del primo Novecento. E per produrre ferro e acciaio bisogna impiantare colossali centri siderurgici con migliaia di operai. Sembra la soluzione ideale per una città come Napoli. Al momento dell'Unità d'Italia, Napoli aveva giusto il doppio della popolazione di Torino e di Milano messi insieme. 40 anni dopo, nel 1901, Torino e Milano avevano il doppio della popolazione di Napoli. E questo ci dice come Napoli stava decadendo. Nel 1904 il governo Giolitti, su sollecitazione di Francesco Saverio Nitti, finalmente attua politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Bisogna rimediare ad una situazione disastrosa. Nitti analizza tutti i guai di Napoli, tutte le false proposte che vengono da più parti in modo infondato e alla fine dice: parliamoci chiaro, qua per far rivitalizzare questa ex capitale c'è un solo rimedio. E io credo che allora fosse veramente l'unico rimedio serio: l'industrializzazione. Per la prima volta si era deciso in Italia di costruire un impianto a ciclo continuo. Per ottenere questo risultato ci volevano degli ampi spazi e questi spazi erano a disposizione per una costruzione industriale nella zona di Bagnoli. La prima colata è nel 1910. Qualche anno dopo il centro siderurgico dà lavoro già a 4.000 operai. Napoli è il quinto centro industriale italiano dopo Milano, Torino, Genova e Como. La prima guerra mondiale assicura ai padroni delle industrie siderurgiche italiane, all'epoca tutte private, una grande espansione. Si raddoppia la produzione di acciaio. Servirà soprattutto per cannoni, bombe e pezzi d'artiglieria. Con la fine della guerra, fine delle commesse militari. Esplode la crisi. Le fabbriche minacciano di chiudere. Si moltiplicano scioperi e occupazioni delle fabbriche. sono gli anni tra il 1919 e il 1921, il biennio rosso. La crisi provoca la prima chiusura dello stabilimento di Napoli. Riaprirà 4 anni dopo. Il 24 ottobre del 1922 Mussolini tiene a Napoli un grande comizio. È l'atto preliminare della marcia su Roma. L'atteggiamento del primo Mussolini nei confronti dell'industria siderurgica è molto negativo. Gran parte della proprietà dell'industria siderurgica è in mano alle banche e le banche ottengono dallo Stato fortissimi aiuti. Questo fa parlare il Mussolini populista di poteri forti. Intanto con il 1929 arriva la grande crisi con il crollo delle borse. La crisi del 1929 arriva in Italia in ritardo. La decisione del regime è quella di intervenire in modo strutturale, continuando la strada degli aiuti di Stato, che era stata tipica della progettazione economica degli anni precedenti, ed è questo il periodo in cui nasce il progetto dell'IRI. L'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, acquisisce tutte le partecipazioni azionarie delle 3 principali banche italiane. Lo Stato italiano si ritrova così a possedere il 42% di tutto il capitale azionario. Dalle banche alla siderurgia, dalle costruzioni navali al tessile, dall'industria elettrica a quella meccanica. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra. Nel 1942 entrano in guerra gli americani e con loro arrivano le fortezze volanti. Nell'agosto del 1943, obiettivo è il centro siderurgico di Napoli. Dopo 2 successive ondate di bombardamenti, i danni sono quasi nulli. In compenso, sono stati rasi al suolo i quartieri popolari di Bagnoli e Fuorigrotta. La guerra distrusse quasi completamente l'Italsider e subito dopo furono gli stessi lavoratori che si costituirono in cooperativa e che con l'aiuto dell'IRI, quindi dello Stato, riuscirono a rimettere a posto lo stabilimento. L'Italia repubblicana deve ripartire da zero. L'acciaio è fondamentale per la ricostruzione. Ma per produrre acciaio servono carbone e petrolio. Sono le navi in arrivo dagli Stati Uniti, in base al piano Marshall, a portare grano, viveri e medicinali. Più di tutto quel carbone e petrolio di cui le industrie italiane hanno assoluto bisogno. L'integrazione dei mercati porta bene all'Italia che nel 1957 sale al 7° posto nella graduatoria dei maggiori produttori di acciaio del mondo. L'acciaieria di Napoli, come tutte le altre, è una fabbrica infernale, con escursioni termiche intollerabili, con una condizione igienica da terzo mondo, con rapporti brutali tra capi e dipendenti. Si lavorava in modo bestiale, in modo animalesco. Mi ricordo che portavamo i pantaloncini corti, i zoccoli canadesi ai piedi con i sacchi ai piedi. In acciaieria, se si stava vicino a un convertitore, si aveva a che fare con una temperatura intorno ai 1600 gradi centigradi. In un'acciaieria si invecchia presto. Turni di 10-12 ore di lavoro duro e pericoloso. Fino all'inizio degli anni 70 si registra una media di 4 morti e centinaia di infortuni all'anno. Quando sono stato assunto all'Italsider ho avuto un battesimo terribile che non auguro a nessun giovane. Dopo 10-15 giorni dalla mia assunzione ci fu un incidente terribile. Un operaio cadde nella siviera di dove c'era l'acciaio bollente a circa 1650 gradi, per cui fu una fiammella. Ma negli anni 60 non c'è spazio per gli allarmismi e un intero quartiere, il rione Cocchia, si incorpora all'area di Bagnoli. Con il 68 comincia la stagione delle lotte, centinaia di disoccupati si presentano ai cancelli dello stabilimento. Negli anni 70 ero di lotta continua, poi iniziai la lotta per il lavoro insieme a tante persone. Nacquero i disoccupati organizzati, di cui io divenni uno dei punti di riferimento, e per noi era importante il rapporto con la classe operaia. Dire classe operaia a Napoli significava dire innanzitutto l'Italsider, dire i caschi gialli. Quindi per noi era importante un rapporto con loro. anche se avevamo delle difficoltà con le organizzazioni sindacali, che non si fidavano molto di questo movimento di sottoproletari, di qualche giovane studente, di gruppi extraparlamentari. Rispetto ai disoccupati organizzati, devo dire che nella fabbrica c'erano più posizioni. Io avevo una posizione più confacente ai disoccupati organizzati, perché se è vero che la motivazione era quella che i figli di, che l'assunzione era legata solo ai figli di dipendenti, io ero uno dei compagni, dei lavoratori all'interno della fabbrica che sono stato contro, ero contro e sono ancora oggi contro, perché altrimenti l'assunzione diventa un fatto ereditario, il disoccupato rimarrebbe sempre disoccupato. L'Italia degli anni 70 si dibatte tra proclami, problemi e crisi. Lo shock petrolifero manda tutti a piedi e mette in crisi l'apparato produttivo proprio mentre si annuncia la volontà di costruire in Calabria, a Gioia Tauro, il quinto centro siderurgico italiano. Prima della crisi petrolifera si era immaginato che la produzione dell'acciaio potesse aumentare in effetti senza alcun limite quantitativo. Le conseguenze sono state i progetti per il raddoppio di una serie di centri, di cui l'ipotesi Gioia Tauro, di cui soprattutto l'ipotesi di cui si discusse molto in quegli anni di spostare lo stabilimento napoletano dell'Italsider sulla foce del Volturno. Poi però è arrivata la crisi petrolifera ed è cominciata la politica dei tagli. A Napoli il comune vara un piano regolatore che destina il 30% dell'area dell'acciaieria ad aree verdi e impianti sportivi. La dirigenza del centro siderurgico risponde con un colpo di mano. Tenta di sbancare una parte della collina di Posillipo, ma viene fermata dalle denunce degli ambientalisti. Parallelamente scoppia il cancro della nocività in fabbrica. Manco a dirlo, Napoli sta peggio. Nel mare, dove si continua a pescare e i bambini fanno il bagno, l'acciaieria scarica ogni ora 20 milioni di litri di cloro, ammoniaca, solfuri, fenoli, catrame, idrocarburi. Qui, ecco, divise soltanto da un muro, da una parte la fabbrica, dove gli operai dovrebbero essere muniti di maschera, dall'altra parte, sulla destra, questi palazzi corrosi dalle sostanze inquinanti dell'aria. C'è da immaginarsi se delle superfici inerti come i muri rimangono così vulnerate da queste sostanze, cosa debba accadere ai milioni di alveoli polmonari delle centinaia di migliaia di persone che vivono in maniera disumana in questo quartiere. È una cosa orribile, già l'ho detta. Io ho preso la malattia delle bronchi, ho tosse notte e giorno, perciò io per me mi rivolgo all'ospedale dove sono stata ricoverata e vedo loro che cosa devono fare. Ecco, ma allora secondo voi che cosa si dovrebbe fare? Ma si dovrebbe levare questo stabilimento? Secondo me, no, levare, perché se, certamente andrebbero di mezzo parecchi che... Noi non vogliamo che vanno l'operaio in mezzo alla strada, però vogliamo che mettano degli accorgimenti che non ci danno fastidio a noi. Nel 1975 viene eletto a Napoli Maurizio Valenzi. È il primo sindaco comunista. Si troverà ad affrontare gli anni più duri della crisi. Il contributo dello Stato per le aziende pubbliche è passato dai 200 miliardi del 1954 a 4.600 miliardi e ha aumentato 23 volte. Nel 1976 le aziende dell'IRI chiudono per la prima volta tutte in perdita. Viene istituito un comitato presieduto da Pietro Armani. Le sue conclusioni sono lapidarie. Per la siderurgia non c'è speranza e per Napoli si parla di chiusura. Noi sappiamo e veniamo informati che De Michelis deve venire in fabbrica. Su questa notizia io provai anche, diciamo, non un'ammirazione. Il ministro ha il coraggio di venire in fabbrica e fare un'assemblea. Allora, l'idea era quella di dire: l'attività di produzione dell'acciaio la concentriamo sicuramente, soprattutto per il sud, a Taranto, e naturalmente poi l'attività di seconda battuta la concentriamo in parte a Cornigliano, a Genova, e in parte a Bagnoli. Questo signore, quando si presentò davanti a 2500 circa di noi che lo stavamo ad ascoltare, chi dentro il capannone, chi fuori con l'orecchio teso per sentire le notizie che poi servivano a noi, disse chiaramente a chiare lettere: il vostro stabilimento non ha più futuro. In pratica questo significava inevitabilmente la fermata degli impianti, sia di quelli che volevamo chiudere, sia di quelli che volevamo ammodernare e sostituire, e inevitabilmente mettere in cassa integrazione un numero elevatissimo di lavoratori, perché questo comportava, adesso non ricordo esattamente il periodo, ma sicuramente più di 6 mesi. Lui quando parla di cassa integrazione non solo parla di chiudere Bagnoli, l'alto forno, ma parla anche di cassa integrazione al buio, senza avere alternative. Ma il risultato era quello di ridare una chance di esistenza e di esistenza produttiva e competitiva alla produzione di acciaio, di produzione di acciaio a Bagnoli. Lì si scontrarono una idea moderna, modernizzatrice, sacrosanta, ma che comunque pesava forte sulla pelle dei lavoratori dell'Italsider, e dall'altra una visione, devo dire, garantista e non illuminata. Alla fine si arriva ad un accordo molto sofferto. Vengono trovati più di 800 miliardi delle vecchie lire. Serviranno per il modernissimo treno di laminazione. Bisogna però fermare l'attività. Finiscono in cassa integrazione 4.000 caschi gialli. Napoli è invasa dai cortei. Il 21 luglio 1983, i caschi gialli partono alla volta di Bruxelles, sede della Commissione. Vogliono urlare ai burocrati dell'Europa la loro rabbia. Il viaggio si rivelerà però un'avventura tragicomica. Non ci fu nessuna compagnia in Europa che ci volle condurre a Bruxelles, e all'appello dei nostri sindacati rispose una compagnia rumena. Andammo infatti con degli aerei, un jet e 2 quadrimotori. Ci fu un errore, un vizio di forma, un errore, perché non considerarono che quel 23 luglio era la festa nazionale belga, quindi era tutto chiuso. È stata una bella esperienza, come uomo, come lavoratore no, perché non è servita a niente. Ma i caschi gialli non si arrendono. Tornati a Napoli si susseguono manifestazioni e scioperi. Il modernissimo treno di laminazione che doveva risollevare le sorti del centro siderurgico rimane in funzione solo 5 anni, producendo molto meno della sua capacità. Nel 1988 lo stabilimento è messo in liquidazione. La sorte di Bagnoli è segnata. Bagnoli aveva questa consapevolezza di essere il principale presidio democratico della città. Era un titolo di orgoglio della fabbrica e di ogni operaio muoversi in questo modo. I caschi gialli organizzano manifestazioni su manifestazioni, scenari della protesta i più vari, da una partita del Napoli di Maradona al balcone del presidente della regione Campania raggiunto con una gru. Ma allora attorno agli operai di Bagnoli c'era anche una grande mobilitazione della città, una grande mobilitazione civile, c'era anche un profondo rispetto della città, perché veniva riconosciuto il valore del lavoro operaio e veniva riconosciuto il contributo che questa fabbrica aveva dato per tanti e tanti anni. E quindi quando Bagnoli chiude, è evidente che cambia in qualche modo la storia della città. La chiusura della fabbrica apre una ferita profonda. Molti operai restano increduli e disorientati. C'è stato un nostro collega che, quando ha avuto la notizia della cassa integrazione, è andato a casa e si è buttato giù dal quarto piano. Mentre altri questo folle gesto lo hanno fatto dopo la vita lavorativa. Non lo so, forse per molti di noi la vita lavorativa era tutto insieme alla famiglia. E uno dei paradossi di Bagnoli, che Bagnoli alla fine entra drammaticamente in crisi e chiude quando la fabbrica è ristrutturata, è molto più produttiva, è molto più sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo è certo un grande paradosso. Io credo che il fatto che improvvisamente l'industria pubblica cada, chiuda i battenti, venga a mancare, sia uno dei più forti fattori dell'insicurezza contemporanea. Oggi le persone, il cittadino globale, è solo, proprio perché sente di non avere più delle istituzioni forti alle quali nei momenti di bisogno, di pericolo, di incertezza, fare ricorso. Per cui ciascuno deve fare da solo. All'alba del 20 ottobre del 90, alle 5 del mattino, con l'ultima colata, l'altoforno numero 5 viene spento sotto lo sguardo disperato degli ultimi operai presenti. La fabbrica viene venduta a pezzi, come era già avvenuto per gli altri stabilimenti del nord. L'altoforno numero 5 va in India, mentre il modernissimo treno di laminazione viene venduto alla Cina, che lo renderà attivo nell'arco di 2 anni. Ad una prima del San Carlo, Teatro San Carlo, notai un gruppo di cinesi. Io chiaramente ero incuriosito e chiesi: ma questi cinesi sono ospiti, chi sono? Scoprì che i cinesi stavano smontando la fabbrica, ma in particolare stavano smontando il cuore dell'Italsider, quel treno di laminazione che De Michelis propose e che costò all'Italsider e alle tasche dei contribuenti centinaia e centinaia di miliardi. È la fine di un'epoca. Anche gli ultimi caschi gialli vanno in pensione. Resta uno spazio immenso da riempire e soprattutto da bonificare. Un paradosso. La testa d'argine dell'operaio dell'Italsider ha avuto un grande merito. Ha difeso fino all'ultimo questo territorio, la loro fabbrica, e quando poi non ce l'hanno più fatta, quando l'Italsider è stato chiuso, loro in quel momento che diciamo morivano come storia di movimento operaio organizzato, rinascevano con ci hanno dato un grande regalo, 2 milioni di metri quadri. Non è successo in nessuna grande città d'Europa e forse del mondo. E se vogliamo avere proprio in giusta considerazione quelle storie, anche questa è una ragione in più per operare bene in questo spazio che alla fine ci è stato donato. Questo grande sogno, apparso come una risorsa straordinaria per Napoli e per tutto il sud, rimane solo un enorme spazio da riempire e da bonificare. Ma questa è un'altra storia, ancora tutta da scrivere. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.